6 e ascolta e trasforma. Paola e Luisa chiariranno la situazione. Paola chiarirà la situazione. Elena e Anna restituiranno il libro. Elena restituirà il libro. Ettore e Lina costruiranno una casa. Ettore costruirà una casa. Gisella e Giada non puliranno la stanza. Gisella non pulirà la stanza. Umberto e Sergio non obbediranno. Umberto non obbedirà. Maddalena e Carlo non finiranno il progetto. Maddalena non finirà il progetto. Pino e Anna non cominceranno a lavorare. Pino non comincerà a lavorare.